Da ieri la giornata è stata abbastanza complicata da gestire, nel senso che la piazza è stata una piazza partecipata ovviamente dagli spazi sociali, ma anche da tantissime famiglie, da comunque anche CGIL, FIOM, insomma tutte le sigle antifasciste di Genova e soprattutto da Genova antifascista. È stato innanzitutto subito un presidio, ma ti direi pacifico, nel senso che comunque ovviamente la piazza si è adunata. Abbiamo incominciato ovviamente a farci sentire con i nostri slogan antifascisti e comunque cantando anche Bella Ciao, per cui subito è partita in maniera abbastanza calma come situazione. Sì, diciamo, nel collegamento che avevamo fatto ieri con un altro ragazzo che si trovava in piazza, ci siamo sentiti due volte, una alle 5:30 e l'altra verso le 6, e la piazza che ci aveva restituito alle 5:30 era una piazza festante con chitarre e striscioni, bandiere e slogan, mentre poi quando ci siamo risentiti alle 6 stavano più o meno iniziando le prime cariche e l'immagine restituita era molto diversa. Assolutamente sì, c'è stato un cambiamento radicale della piazza, come hai detto tu, appunto è partito in maniera molto, anche se vuoi, colorata, nel senso che comunque le sigle che c'erano in piazza erano svariate. Poi c'è stato un cambiamento repentino e quasi improvviso, perché comunque la situazione si è abbastanza surriscaldata quando poi è iniziato, no, l'ora del comizio, che era più o meno intorno alle 18, e si sono intravisti, perché poi la piazza è stata blindata, si sono intravisti appunto chi faceva parte, chi ha preso parte al comizio in piazza Marsala. Devi tenere presente che piazza Corvetto è una piazza che ha, mi sembra, 7-8 vie di fuga, nel senso che ha 8 sbocchi che sono stati tutti tappati dalle forze dell'ordine, per cui la tensione in piazza era palpabile fin dall'inizio, però poi in una situazione che poi è degenerata puoi capire che è diventata una tensione molto molto alta, anche perché tantissimi non sapevano dove scappare. Sì, diciamo, l'impressione che c'è stata, correggimi se sbaglio, è quella che gli scontri non fossero solo quelli dovuti al tentativo di sfondamento, diciamo, per entrare in piazza Marsala, ma fossero a un certo punto al contrario, quindi con la polizia che cercava in qualche modo di sgomberare piazza Corvetto e quindi il presidio antifascista. Assolutamente sì, è assolutamente giusto quello che dici, anche perché hanno comunque usato da subito lacrimogeni e fumogeni, scusami, poi abbiamo scoperto che sono ICS, e quindi insomma l'aggressione che hanno fatto le forze dell'ordine nei confronti della piazza è stata volontaria, per sgombrare una piazza che era abbastanza numerosa e che come impatto di presidio era abbastanza forte, per cui non hanno fatto distinzioni fra chi era sotto gli alari o comunque chi era nel centro della piazza o chi era ai lati della piazza. Ti ripeto, io mi sono trovata in una situazione in cui c'erano anche bambini e famiglie con passeggini e non hanno assolutamente, cioè, proprio fatto distinzione di sorta. Loro volevano sgombrare la piazza, cioè non averla chiusa e poi sgombrarla, è stato un atteggiamento veramente assurdo. E poi dalla piazza, che comunque, se non mi sbaglio, è stata ripresa dopo che a un certo punto era effettivamente stata quasi completamente svuotata, ci si è mossi in corteo verso la questura, quando erano stati arrestati appunto per la prima volta due dei manifestanti, per cui poi questa mattina c'è stato un processo per direttissima a cui molti avete partecipato. Con un presidio, diciamo, ti chiederei se c'eri e com'è andata. Sì, allora, innanzitutto ieri, poi dopo appunto che è stata sgombrata la piazza, ci tengo a dirlo che è stata sgombrata perché l'aria era invivibile, quindi insomma abbiamo cercato di sopravvivere a veramente i numerosi gas che hanno lanciato. È stata poi riconquistata la piazza, da cui poi dove ci sono stati appunto gli arresti, e da cui è partito un corteo spontaneo verso la questura, che insomma è stato assolutamente portato fino alla fine senza nessun tipo di problema. Da lì si è tentato di capire se potevano essere rilasciati immediatamente quella sera, ma questa liberazione non c'è stata. Stamattina c'era il presidio sotto il tribunale di Genova e la sentenza, insomma, hanno deciso di liberarli con l'obbligo di firma e hanno rinviato il processo al 19 di luglio. Va bene, tornando un secondo alla giornata di ieri, ti chiederei, visto che abbiamo parlato dei due manifestanti che sono stati arrestati, di come si è sviluppata questa questione, ti chiederei anche se poi ci sono stati dei feriti all'interno della piazza, nel senso che molti abbiamo visto l'aggressione nei confronti del giornalista di Repubblica, immagino ce ne siano state anche altre. Guarda, allora, la piazza in quel momento delle cariche, non avendo appunto vie di fuga, come avevamo più volte detto, lo ribadisco perché mi sembrava di stare al G8, perché una piazza chiusa da tutti i fronti senza neanche potersi dare, no, una possibilità di scappare anche solo dai gas, perché non tutti in piazza hanno preso parte agli scontri, c'erano veramente persone di ogni età. Ci sono stati vari feriti, nel senso che comunque loro, la polizia ha caricato e ha caricato coi manganelli, e quindi ci sono stati vari feriti, di cui un ragazzo che abbiamo soccorso, molto giovane, che credo faccia parte delle scuole, sia uno studente che ha riportato un taglio sulla testa, e sì, poi c'è stata l'aggressione al giornalista di Repubblica, insomma, che ha riportato diverse, la frattura della mano, una contusione, un trauma toracico, insomma, per quanto lui si sia dichiarato giornalista, non hanno assolutamente preso in considerazione il fatto che lui fosse lì per testimoniare quello che stava succedendo. E anche il ragazzo che è stato arrestato comunque è stato picchiato selvaggiamente. Ci sono stati altri piccoli feriti, nel senso che comunque in piazza a quel punto lì volavano di tutto, gli stessi gas comunque hanno procurato delle lesioni, per esempio sono finita in mezzo ai gas, ho avuto una crisi respiratoria, per cui quel momento in cui sei proprio, cioè non hai facoltà di dove sei perché non vedi, non riesci a respirare, quindi sei anche attaccabile da più fronti, ecco. Se quello al G8 è un riferimento che è stato fatto molte volte, diciamo, anche rispetto alla militarizzazione che c'era stata dall'inizio alla creazione di una zona rossa. Sì, purtroppo Genova si porta dietro questo spettro e continuano a chiudere le piazze con gli alari, che sono questi cancelli di ferro che chiudono, no, da entrambe le parti le vie. L'assetto è sempre un po' quello, nel senso che sembra di stare veramente in un assetto di guerra e anche in uno stato di polizia, perché gli schieramenti di forza che hanno usato ieri sono stati veramente oltre ogni misura. Sì, l'atmosfera che si respirava era un po' da G8, devo dire la verità, te lo dico con rammarico, ma sì, un po' sì.